a te, come la giri intorno al fiore di lilla, come la regina giri intorno al proprio re. Con me e mi sto bruciando come un chicco di caffè.